non stai attento, Giuseppe, mamma mia. Ma la tua casa sei caduto, o in giro stai andando? Non ho capito, ho capito. Vabbè, dai, piano piano già ti rimetti a posto. Ma io sono una settimana con questa influenza, sono tutta dolori. Sono tutto chiuso. Sto prendendo di tutto, di più, e ancora non mi passa. Vabbè, fare il soccorso lo devo fare. Gianfranco, sentite a Giuseppe Valghero. Hai sentito Giuseppe? Aggrego, un po' di difficoltà. Sì, sì, sì. Sente che stai modulando, ma non ha capito cosa hai detto Gianfra. Due linee alla zona del Tarantino. Capito? Va bene. Comunque Gianfranco la Sassari, o Giuseppe, saluta. E niente, io stamattina ho firmato le carte e finalmente al 30-11 abbiamo partorito Gianfra. In questo momento mi piace fare la fannuta riposarmi un attimino, concentrarmi su altre cose. Mi devo ancora un po' riprendere. Sì, stamattina alle 10 fermato le carte in azienda, adesso le copie e domani mattina devo portare al patronato per mandarle all'Inps e poi aspetto, però oramai è definitivo, abbiamo chiuso il 30-11, al 30-11 dovevo rientrare il 20 di novembre, invece mi sono rientrato perché avevo ancora un po' di ferie e quindi abbiamo chiuso il mese. L'avviso l'avevo già fatto, ho fatto tutto e mo aspettiamo. La mattina è lunga, maledizione, molto molto lunga. sentito Gianfranco. Cosa ha detto Giuseppe? Ma Giuseppe, guarda che questo non è Gianfranco quello che lavorava con te, questo è un altro qui. sei tutto a fischi. A fischi sì, un innesco c'hai. Cosa mi ti dica? Io sento un innesco. Gianfra, cosa senti tu? Intanto le toglie dalla vetrina queste radio vecchie di 40 anni fa. C'erano le radio spettacolari che escono benissimo, sempre tutte le radio vecchie. Già, tutta rumore, sì, tutta inneschi, tutto un casino. Allora, facciamolo mettere a posto, poi si vedrà. Ho capito. Allora, comunque è così già fatto. Come io dovevo per forza farlo sto passo, se no non toglievo più i piedi. Stavo sempre tirando, tirando, tirando, ma comunque te l'avevo letto che stavano preparando i conteggi. Va bene. Ok, vediamo un po'. Gianni. Adesso mi sta togliendo un altro in baracchino. Ma chi era? Gianni KB2. Gianni Capriduo da Muros. Non lo so, non lo so, guardarsi pure che qualche spesuccia la faccio, io non sai, anche se non le uso, non mi piace averle. Non lo so, qualche cosa c'è, qualche caffè buono. Sostenerlo bene. Vai Gianfra. PC ce li avevamo comprato. L'avevo comprato, sì, funzionava benino. Funzionava benino. Bisogna stare attenti, non faccio rumore di alternata, comunque, per evitare di comprare batterie, già va bene, già va bene. Ok, Summercamp, sì, sì. Poi mi dici che microfono stai usando con quel Summercamp. Avanti, Gianfra. Thank you. e perciò sotto mano 757 GX2, detto già non ne prendere, non ne prendere troppi, magari come così HF di quelli vintage, un bel 140, un 440 eccetera, non lo prendere quello, perché è una radio che proprio non ha nessun risultato, non serve a niente, capito? Perché io l'ho provata, l'ho testata, ma già negli anni che furono, perché la comprai nuova, era appena uscita la Mario Notari, una delusione già fra totale. Il microfono preamplificato non ce n'era, c'era l'MD1B8, l'MD1C8, uno di quelli che mi hai dato tu, e basta, quindi non aveva niente, nulla, una radio così brutta veramente. Infatti l'avevo tenuta pochissimo, e l'avevo venduta ad un vecchio radiomatore che adesso non c'è più, e avevo comprato il primo 140, che sono rimasto proprio da lì, infatti sono diventato kenwoodiano proprio perché li ho provati tutti i Kenwood, quindi giusto per farti capire, ma hai fatto un'illusione totale, 757, io ne ho presi tutti e due, il GX e il GX2, perché pensavo che il 2 avesse un software un po' più aggiornato, qualcosa di diverso, uguale, preciso, identico, non cambiava assolutamente niente, proprio uno schifo, una radio così brutta che guarda, per carità, capito? Non c'era niente da fare proprio. Però Gianni l'aveva già praticamente preso, quindi insomma, non lo tieni per oramai, infatti c'era in vetrina, ma qui c'ha due bei 440 bellissimi che funzionano magnificamente bene, quindi per me sono le uniche radio vintage della Kenwood che sono rimaste all'uso, perlomeno che le faccio io 27, e giustamente non è che prendere a farci il radioamatore, perché anche quelle sono rumorose, però la 27 i 4 Kenwood sono risultati il top, sia il 140 sia il 30, 430 e 440, io ho il 430 e il 440 e non li cambio mai più, perché intanto tutto è stare lì a cambiare, sono il massimo che possono dare, perlomeno a me, poi agli altri non lo so. Dai Capri 2. Un candidato c'era, abbiamo fatto già, così mi hanno detto la Cagliari, quindi oramai non so come si andrà a finire, ma comunque c'è pochissima attività, qualche cosettina così che è appassionato di ex, ma a livello locale non c'è più niente, è già. Quello è il vero significato di Radio Amatore. alzati di nuovo, dai. Sono tornato a casa, ho spento in macchina che sono arrivato e c'è troppo freddo e non sono tornato a casa. A riposare un pochino, dai, che oggi è stata una giornata un po' stressante. C'è la mattina degli uffici, io sono un sacco di roba qua. Da una cosa all'altra, dai, meno male è passato. Si è fatto chiamato già, ho pensato che eri salito su a casa. Sì, sì, e anche io stamattina alle 10 ero in ufficio, ho appunto fermato per la documentazione, se domani mattina lo stesso. Devo andare al patronato per mandare tutto all'Inps, se no non facciamo il tempo per ricevere la pensione a gennaio. Ho firmato stamattina tutte le carte che avevo dato all'azienda. Io lo stesso, adesso domani mattina, venerdì, ho tutto al patronato, poi si arrangiano loro, appena è tutto pronto mi chiameranno. Avanti, capri due, riprendi. Se la volta che l'ha preso l'altro 3 io mi ricordavo mai vieto 3 ma non c'è problema, eh. Ci trovo attacchi un altro. Ah, già va bene, dai. Ciao Gianni. Poi siamo Mi Sette capito qua. Comunque il controllo si è finta sotto qualche guarnizione del vetro, adesso lo vedo, perché una l'ho trovata proprio lì dove c'è l'incana l'attiva del vetro. Ma la tela funziona bene, sì? Sì, sì. Allora meglio così, no? Meglio così. Caffa gatto. Avanti, Claude. No, si è sentato Claudio. Devo fare prima. Andare. Gianni, riprendi tu, Michelino. Vai. Ciao. Ciao Gianfra. Il naso, c'è il naso tutto rosso, tutto screpolato, ma mi dà un fastidio allucinante, se vuoi sempre buco di radia. Avanti Gianfranco. Gianfranco l'hanno chiamato. E prendi tu allora, vai, fai girare. Sì, dai. Ehi, vabbè, sono periodi che facciano al caldo al freddo di corpo e ti prendi il fregato. Anche io l'altro giorno me lo sono preso dal freddore, però mi ho fatto un po' di tè caldo, me l'ho bevuto così e me l'ha fatto passare. Deve essere che era ancora all'inizio. Un po' di tosse ce l'ho ancora, ma non la sai, è rispetto per avere un corpo, ma è una cosa sopportabile. Quello che non posso sopportare è che me l'ho fatta andare per fare i vaccini a Marco e non c'era bisogno, non aveva nessun vaccino da fare, però che vada per di me dalla scuola, perché c'è l'arte della scuola, no? E mi hanno fatto queste email scrivendo praticamente che Marco doveva fare questo tipo di vaccino, invece non l'ha già fatto, solo che loro capivano la calligrafia del dottore nell'impresa. Tra l'altro l'ho fatto anche ricchiato, allucinato. Sì, ma quello che io sapevo c'è uno di più. No, io ho fatto tutti, ho fatto anche quello, vabbè, lavorando è obbligatorio per noi. Il tifo, insomma tutto, tetanica, ho fatto tutto. Ho fatto tutto. Vaccini per i curianti, come si chiama? Per essere tutelato dalle malattie effettive, capite? E basta. Non ho mai fatto quello di influenza, perché ogni anno non c'è niente da fare, ogni anno mi deve pizzicare. Anche due volte all'anno mi prende. Anche due volte all'anno. Magari mi biglia giù qui a 3-4 giorni così. Anzi, adesso riesco un po' a parlare, ma i giorni scorsi non c'avevo manco voce. Vabbè. Avanti, un carriere. Stavo dicendo cosa volevo dire, una cosa ma mi dubbiava, mannaggia. Gianni, per quanto riguarda l'antenna tua, quel capo che l'hai messo sotto non crea problemi? Che cosa? Non ho capito. Ho detto, il capo che abbiamo messo sotto il cielo non crea problemi così buttato. No, assolutamente, nessun problema. Mi basta che sia sparso, che non sia tutto tanto migliorato, non è chiaro. No, non è chiaro, quello, ma non si è rotolato, la gioveggiante. Ho sentito poco fa, era più di 9, era di 5 dalla macchina. L'abbiamo pensata bene, era. Purtroppo è stato un casino perché non passava quella specie di coso, di bicchiere, da, che va a incastrare nell'antenna, nella base. Una ci è caduta dentro, l'ha scartolato, e da quel punto lì è scartolato. E vabbè, da. Già, cosa vuoi fare? Purtroppo, vuol dire che andare a gusti. Già vabbè, lo stesso, pensate che prenda a me, da. Quello che c'è dentro non si vede. No, assolutamente. Mi sto installando i driver della scheda video. E mi sa che ho finito. E poi dopo me ne vado a mangiare. A proposito, ma ce n'è acqua lì da voi? Perché c'è l'autoclub e non me ne rendo conto, ma non capisco quello dell'autoclub, perché c'è l'autoclub che vedi e poi ce la manda l'autoclub quando manca. No, ho capito, però manca dalle 4:30 a casa di mamma. E invece la casa della mia ragazza tutto il giorno. Sì, ma leggete il giornale ogni tanto. Ma ne rotto le balle, clavo, diceva, già brutta, cazzo. E ce l'avamo ripagata, e guarda, mamma da poco ne ha pagato un bemi. E ti dico, quanto ne ha pagato, sto lo scrivo su WhatsApp. Cioè, da una cifra, poi si passa da un'altra. E non va bene così, comunque noi l'abbiamo pagata, poi vediamo cosa succede. Sì, ma leggete il giornale, c'era scritto un giornale oggi. Ci sono dei lavori, la parte bassa, la via Porcellana, tutta la parte bassa, una parte del monte, acqua non ne aveva oggi. Vabbè, cavolo, questa qua sta mancando di continuo, oppure arrivi brutta. un esempio, se prima era 400 euro, un esempio è da pagare, e poi ce ne hanno chiesto 900, dov'è? Cioè, c'è un problema, c'è un errore. E non è così, è molto più alto, è molto, molto più alto. Perché vai a protestare e poi devi fare uno più uno per protestare, capito? La coscienza deve essere pulita per andare a contestare una cosa. Insomma, con l'ufficio di la principessa Ivanda sono sceso giù alla, non ci so, dove c'è l'ufficio utente. Ho chiesto la cortesia a una collega, ho detto, la cortesia, ma controlli questa, questa utenza, così e così, uno che conosco, mi ha detto che appunto ha sempre pagato, che là voleva capire come mai, ma c'è conguaglio, io ho detto, no, no, ma tocca assolutamente, come vedere, ma vai, se vieni ti faccio una cosa, c'è. Questo praticamente dal giorno in cui ha fatto l'atto della casa, gli hanno consegnato la casa, quindi 3 anni, forse anche di più, forse anche più di 3 anni, perché lui ha detto 2 o 3 anni e invece era più di 3 anni. Dopo l'hanno consegnato la casa, ha collegato il contatto, e non ha mai pagato Eva, quindi da 3 anni, quasi 3 anni e mezzo che non pagava Eva. Allora gli ho detto così, è. Non stampi lo storico, fai la cortesia. Siccome aveva perché non vuole il telefono, l'ho telefonato e ho detto ci facciamo vedere un attimino, che così ti faccio vedere la pratica che mi hanno dato. Sì, è dopo un tetto, sì, sto arrivando. Faccio mai buca, scusa un attimo, ma cioè, sai dove lavoro? Mi chiede la cortesia, io te la faccio, mi fai fare una figura di merda che non viene bene a dire. Tanto sì, 3 anni e mezzo che non paghi acqua, effettivamente di 1200 euro che ti sono arrivati. Ma tu non ti devi vergognare. Tanto prima di fare casino, accertati che la tua coscienza sia pulita e tu puoi andare a fare casino e contestare una cosa. Ma tu ti permettere mai più, so, questo è il tuo bollettino, arrangiati, ciao, esci me ne ragù. Pensava che gliela pagavo io, capito? Cioè, come se 3 anni e mezzo non lo paghi acqua, ti lamenti che ti è arrivato 1200 euro. E gli hanno messo senza morosità, senza niente, capito? E hanno fatto un bollettino unico, addirittura con l'allegato, se c'era difficoltà di pagamento, glielo facevano in 3 rate, capito? In 3 rate, e invece non ha mai pagato. Sono tante cose da mettere a posto. Infatti l'impiantatore va tolto, prima ci si poteva fare la voltura, adesso la voltura non esiste più, l'hanno tolta proprio per il semplice fatto che molta gente usufruiva del contatore di Tizio Caio Sempronio, ma era morto e nessuno pagava leva, perché la bolletta arrivava al morto e gli diceva a me non mi ha fottuto da sì, ma l'utenza è quella, prima o poi te la staccano l'acqua. Allora la mano ha deciso che ogni singola persona che va a prendere un contratto di locazione nuovo, volture non ce n'è più, c'è un nuovo contratto, quindi nuovo allaccio, capito? Intestato a te, se non vuoi è così, e devi portare i documenti anche, i documenti del contratto di locazione o dell'acquisto della casa, se no te ne allacciano. E confermo, si chiama Rosa, bravo, ma cazzo, ci ho bisticciato io, ci ho bisticciato una tipa, addirittura una tipa gli ha detto, non si preoccupi, perché a quanto capito sta tipo in regola, non so, tutto con, cioè, con i fogli, c'è una cartella piena, si vede proprio una persona distinta, ecco, e gli ha detto non si preoccupi, io vado dal mio avvocato. E un giorno lei ha detto, guarda signora, anche una signora anziana poveraccia, gli è arrivata la bolletta dell'acqua, che c'è lei e il marito, non so, sa che avevano 80 anni più o meno, 80-82, col marito vive in casa, c'è una bolletta da 400 euro ed abita al sicurezza 700 euro di pensioni, a voci, e gli ha detto questa signora vecchia che andava dall'avvocato e lei ha detto noi avvocati ne abbiamo 10, non sono voluti di rispondere quelli qua, ma proprio è guasta, c'è voluto rifare, cioè ti fa preoccupare, non dice le cose, ti fa preoccupare, ti fa venire l'infarto, veramente, non sto scherzando. Dile tranquille, ma se no io rischio lavoro qua, sei scorbutica, proprio sei vea, poi ha detto delle cose non dovevo dire davanti a tutti, ma la privacy, ma il cazzo è quell'ufficio, cioè tutti quanti l'ho sentito, io davanti a tutti gli ho detto che i soldi da culo me li levo, e non ho mai detto nulla, come sono in casa di un bambino, guarda non lo so, ma qui come potrà trattenere, perché è una cosa a cui mi ho aperto la bocca. Non ce n'è privacy, hai visto come ho organizzato? Come sono organizzate le uffici, questo bancone, tutti intendono in tutti i vasi, è così, non c'è nessuna privacy, capisci? Se tu vai a Cagliari, agli uffici, le utenze sono separate, ci sono i box, come la banca, capito? Dove un po' c'è un po' di privacy, perché parli piano, come vai a Equitalia, ufficio alle entrate, no? Ci sono i box con l'operatore, capito? Lì è tutto il pascolo bravo, ma è così Luca, è così, non credimi, te lo dico perché ci ho vissuto, c'è un casino vero, ancora sono indietro di 1000 anni con la fatturazione, con la gestione del servizio idrico a Sassari, cosa che nelle altre città come Cagliari, Nuoro, Oristano, sono molto, molto più avanti, capito? Comunque mi dispiace, se io sono un tuo collega e faccio la stessa cosa, dobbiamo andare d'accordo, però che tu mi dici, cioè viene un cliente, sì signore, per attaccare l'acqua ci vogliono 600 euro, cazzo, poi vado a te e mi vuoi 1000, perché da quella là 600 e da te 1000? E quello, dovete essere d'accordo, infatti gli ho detto, voi non siete d'accordo qua dentro, ognuno dice la sua. Successo, non va a raccontarlo qua. Sì, c'era la bolletta da pagare, c'era, quando sì. Però ti racconto, ma non qua. È una cosa sbagliata. Cioè, ma poi dico, cosa mi racconti alla Ieti? C'è quella signora e un anno senza acqua. Come ha fatto? A te cosa andare a dire alla Ieti? Come ha fatto alla Varsi? Cioè, ma te cosa ne frega, cra? Io sono venuto qua. Io o qualunque persona che va lì a risolvere il problema, no, che si deve mettere la voce e sentire gli altri che quella era così e così e colà, è sbagliato, e la prende la schiaffa a bocca con la rosa, ma poi è fea, e poi prima di dirgli cose andava la faccia un capo per arrivare un sushi, e insomma come così abbiamo lavorato assieme ad Alghero con quella ragazza quando era appunto alle utenze, ci avevo anche la zona di Alghero. È abbastanza preparata, è molto scontrosa, molto direttamente un po' stressata, perché stare lì dietro al bancone non è facile, capito? Non è facile, io e lasci che il problema l'avremo risolto subito. È una cosa molto molto dura, molto, ho dovuto portare mamma, lasciarla in macchina perché entrare lì è un casino, c'è un ufficio proprio che fa schifo, bravo, mi dispiace dirlo, comunque molto scontrosa, bravo, la parola giusta. Lo so, non potevamo parlare, io ho abbastanza confidenza, è una persona che con me ha avuto sempre un ottimo rapporto, quando gli ho chiesto le cose, mi ha sempre fatto, lei o Giovanna, insomma, quelle tre che ci sono lì al bancone, sono state tutte e tre mie colleghe, quindi non c'è nessun problema, non dovevi parlare, vedevamo se si riusciva a gestire la situazione. A proposito di situazione, Gianni, tu a che punto sei invece con i lavori? Normale, non si alterava. una cosa, invece pagare te manca un altro, mi deve dare l'IBAM, insomma, perché non so, pagamento diverso. E quella là mi ha sparato di più. Cioè, infatti ho detto, quella, o vi mettete d'accordo, o qua andate male. E poi lì si è alterata. Poi gli ho detto, quando io gli ho detto che secondo chi trovava erano cavoli amari, e non ti preoccupare che lo prendo e lo sbatto a terra, lo prendo e lo atto in aria, una cosa del genere, mi ha detto. Subito il funzionario, c'è il funzionario lì al, al quarto piano, l'hai assentata subito, l'hai da capito. Io comunque state attenti, perché il pagamento, la morosità, quando c'è uno slaccio di acqua, uno è moroso per mille motivi, non stiamo lì, può capitare. La morosità è una cosa, c'è una prassi diversa da quella che è il riallaccio. Ok, perché la morosità va seguita, va fatta, se uno, diciamo, è Luise, ha una rateizzazione diversa da chi ha un'entrata, capito, sono delle maggiorazioni, ci sono tantissime cose per quanto riguarda la morosità, il pagamento della morosità, ma il nuovo allaccio, quando te lo slacciano e te lo riallacciano, addirittura chi non ha reddito, l'allaccio è gratuito, ma non te lo riallacciano gratuitamente, se invece hai il reddito, l'allaccio, il nuovo allaccio è 80 euro, non lo devi pagare subito, te lo mettono nella prima bolletta, capito, quindi dopo due mesi, capito, quindi non lo vi fate fregare, non ce n'è cifre esuberanti, un allaccio di un contratto di utenza è 80 euro e va pagato nella prima bolletta, quindi nel primo bimestre, non va assolutamente pagato allo sportello, nel modo più assoluto. Purtroppo è così, però mi dispiace, cioè non vanno, secondo me tra colleghi non vanno d'accordo, ma poi si vede dalla persona, cioè poi risulta mia madre lì, risulta, cioè ho chiesto il fuggio del contratto dalla casa, mia madre risulta qua, da 69 là, come cazzo fai a dire, a chiedermi il fuggio del contratto dell'appartamento? Infatti l'altra, la sua collega, beh, guarda che qua il contratto è non di sua mamma, come ha fatto a chiedergli il foglio del contratto dalla casa? E me l'ha chiesto, chissà Rosa, invece l'altra no, perché mia madre risultava lì. Sì, perché una c'ha un modo di lavorare e l'altra l'inverso, capito? Sono tutti a contusorio da giudizio, una è più madrona dell'altra, e quindi cercano di avere più carta possibile per non andare a cercarla. Un contratto in locazione dal 1969 è ancora contratto Sinos, quindi contratto di locazione Comune di Sassari, quindi i contratti quelli lì erano stati fatti dagli ACP da una vita, capito? Tu considera che a mano è entrata nel 2005, quindi è chiaro che tutto ciò che era carta da poter registrare, fare o volturare è rimasta senza fare, e quindi loro devono andare a cercarsela, e andare a cercarsela vuol dire perdere tempo e rotture di balle, e quindi lo chiedono a te per agevolarsi loro, capito? Quel parte tutto da Cagliari, sì sì, sembra normale, ma che sa se non c'è niente. Queste cose così partono tutte dalla direzione generale che è Cagliari. Comunque io ho chiesto, se potevo parlare con un responsabile, la signora Rosa mi ha detto che non era possibile, devi pagare questa cifra qua, appunto. Ha detto se uno non ne ha, non ne attacca acqua. Ma così, vabbè, se lo dice lei. Nuovo con lo scavo, il tuo sì, quello è decaduto automaticamente. Perché ti è capitato di morte decade il contratto di tuo padre, quindi tu stai facendo un nuovo allaccio, un nuovo lavoro, però il lavoro stai facendo tu. La mano te lo fa, te l'ha detto anche il geometra, no? Se lo mettono loro, l'impresa, che è l'ufficio metropolitana che fa quei lavori lì, tutto lo scavo, ti passa i tubi, ti collega tutto, ti fa la nicchia, ti dà tutto il lavoro finito, e costa 600 euro, ok? Mentre facendotelo tu come ti ho consigliato io, con l'aiuto di un muratore eccetera, ti costa meno della metà. Ciao.